Ehi, ehi, M parte da zero, le tue barre le a zero. Studiano mio testa la neuro, tipo questo fa per davvero. Tipo la tua tipa babbeo, che ti credi un altro Romeo. L'altro ieri ha fatto un rodeo, non ci credi guarda la neo. Faccio questa merda in un take, sì ci sono un botto di fake. Se ti scrive testi qualcuno, no comunque no non sei Drake. Se tu piace a femmine maschi, sì vai pure accesso col taxi. Se ti leccano tutti il culo, no comunque no non sei Justin. Vedo più scenari tra Gigi, io di questi va a riposo. Sogna tutti gli anni magici di ogni festival imploso. Sulla strumentale ganci calci ogni tecnico ogni metrica. Repo super cali fragili, sì sì che spiralidoso. Voglio fare i rendiconti col traino, voglio fare Jerry Scotti col grano. Voglio che riempi e scoppi lo zaino, voglio fare Mary Poppins Doraemon. Stavo rilassato in costume infradito, pensavo che ero rinsavito. Ma l'odio che covo di vampe come il conto in banca, nel senso che mi è risalito. Flow nuovo di pack, il tuo sali già visto. Fra chiedimi il fic e ti è crisso. Chiedimi il visto tipo in nulla osta. Dialego una strofa che tipo un'epistola, tipo un'epistola. Il flow è una cazzo di bolla papale, te lo ripeto pure se banale. Te lo ripeto papale papale. Flow nuovo di pack, il tuo sali già visto. Prova a copiarmi, vedi quanto vali. Ma attento che cadi se guardi l'abisso. Stai fatto ogni tanto, beh immagina fisso. Fra tremani i muri, fra come se dentro ci fosse qualcosa che brulica. Tremani i muri, fra come una corsa degli hooligan. Come una scossa tellurica, M sopra la strofa. Tipo un porco una strofa, scoppo il beat perché è la mia sposa. No, non so se è benca sta cosa. Se giù in Puglia dico so fatto, su a Milano dicono un tofa. Fumo sopra d'un sofa, sta merda ti fa come il proza. Ehi, la tua solita solve l'offia, sa di niente scartoffia. La gente ti sente e pronfa, e me prende a sberle trionfa. Fra queste erbe secca ma gonfia, questa fregna secca me gonfia. Tu fai il pazzo ma non c'è stoffa, prendi il cazzo in mano Gercoffa.